Lui è stato sempre con me. Io con quel baule ci parlavo, perché è sempre stato il mio più grande aiuto in tutti questi anni. Era sempre lì e diceva sempre la cosa giusta. Fino a domenica. Io sono qui. Io sono qui. Di Matteo Caccia. È mercoledì, è il 23 di marzo, sono le 16:08 minuti, questa è Radio 24. Io sono Matteo Caccia e sono qui. È che ci sono delle cose da cui ci vorremmo separare e non riusciamo, come dicevamo ieri. E poi ce ne sono delle altre da cui non ci separeremmo mai. Che alla fine sembrano la stessa cosa, però non lo sono. Perché se è vero che ci sono oggetti di cui vorremmo liberarci, ma che sono più forti di noi e in qualche modo ci rimangono attaccati anche se non sappiamo come, ce ne sono altri che invece consideriamo una specie di protesi del nostro corpo. Ecco, quali sono gli oggetti che noi scegliamo? Sono le cose che raccogliamo nell'arco della nostra vita, oggetti che ci capitano addosso, che andiamo a cercare, ma che comunque, in un modo o nell'altro, diventano inseparabili. Spesso non sono tanti, sono uno, due magari, tre, se proprio ne diciamo tanti. Gli oggetti in alcuni casi diventano addirittura degli elementi distintivi, cioè cose che non solo appartengono a una persona, ma che la caratterizzano, no? Un po' come i personaggi dei fumetti, quelli del cinema, della letteratura. C'è chi si porta sempre appresso una coperta, chi un impermeabile, chi un sigaro. Alcuni personaggi della fiction non sarebbero loro senza quell'oggetto feticcio. Però poi, a pensarci bene, non ci vuole la fiction, no? Tutti noi abbiamo un oggetto feticcio, qualcosa che racconta di noi e che addirittura ci rappresenta. Leggevo oggi che per i popoli primitivi il feticcio era di fatto una divinità, cioè era qualcosa che veniva adorato, che veniva protetto. Ecco, forse è per questo che quando ci affezioniamo ad una cosa non riusciamo più a farne senza, perché è talmente nostra che è più noi di quanto noi immaginiamo. Quindi, che so, un paio di pantaloni, un casco, un orologio, una tazza di tè o una sedia non sono solo più degli oggetti legati a una funzione, a quella funzione che loro assolvevano, però diventano qualcos'altro, tramandano la nostra storia. Sono come un testamento, come un pezzo di biografia, senza la quale ci sentiremmo diversi, ci sentiremmo un po' meno noi. Ecco, se avete voglia di raccontarmi qual è l'oggetto a cui non rinuncereste mai e perché, io sono qui. E il numero è quello, è 800240024 per chiamare in diretta, oppure c'è un sms che è il 349-238-6666, sono sempre quelli lì. Ieri abbiamo parlato di quegli oggetti appunto che vorremmo non esistessero più vicino a noi, ma non riusciamo a separarcene. Oggi è esattamente il contrario, sono proprio quegli oggetti che in qualche modo eleggiamo a parte di noi e quindi ci portiamo dietro negli anni, nel tempo, nelle case, nei traslochi. Vorrei fare un distinguo però, perché è arrivato qualche messaggio prima sul profilo Facebook Matteo Caccia, io sono qui. Laura ad esempio scrive l'agenda, le collezioni in un angolo della libreria da anni, o Antonella tutti i miei CD. È un po' diverso, perché queste sono collezioni, noi invece parliamo proprio di un oggetto singolo. Vi faccio un esempio: Serena, ecco, una maglietta di Snoopy taglia 6 anni, che non credo sia una taglia, però una taglia da bambina di 6 anni. L'ho sempre portata con me. Ha cambiato tanti armadi, ma è sempre lì, in fondo al mio cassetto. E mai mi sognerei di buttarla via. Ogni volta che la trovo, prendo il cassetto e mi rasserena. Ecco, mi piacerebbe capire il perché, però, di queste cose. Mi piacerebbe capire, ad esempio, perché Alessia si tiene la prima radio stereo con il mangianastri, distrutta ma ancora funzionante. Marco, la maglietta con la banana dei Velvet Underground, comprata nel 1998 a Madrid. E poi Joanna o Joanna. Per me l'oggetto è il quadro che mi dipinse mio nonno. Mostra la mia casetta in montagna in Norvegia. È ricco di colori, vita e ricordi d'infanzia. 800240024. A questo proposito, c'è una storia che voglio raccontarvi, la storia di Walter Benjamin. In realtà l'ho già raccontata in un'altra occasione, quando si parlava delle valigie, credo, in cui si tengono delle cose. Walter Benjamin era un filosofo ebreo tedesco che era in fuga dal nazismo e che si è suicidato, si è tolto la vita in un paese dei Pirenei perché era stato catturato e rischiava di essere riportato in Germania. Lui aveva con sé, quando è stato catturato, una valigia che conteneva un manoscritto, che era il suo manoscritto principale, quello che conteneva probabilmente la sua opera più importante. Quel manoscritto sparì, non si trovò più. Lui però era affezionato in particolar modo a un oggetto che infatti, prima di scappare, perché era diretto verso Lisbona e da lì verso New York, questo oggetto lui l'aveva nascosto, l'aveva consegnato a un amico a Parigi. Era un quadro di Paul Klee, era un quadro che si chiamava Angelus Novus, che lui aveva comprato nel 1920, no perdonatemi, nel 21, che Klee aveva dipinto nel 20. Ecco, quello per lui, e lo raccontava lui stesso in uno scritto, era l'unico pezzo di casa che Benjamin si è sempre portato dietro in tutti i suoi cambiamenti di domicilio, e credo che abbia cambiato diverse case proprio per sicurezza, per scappare alle persecuzioni. Cambiò, mi pare, 13 abitazioni. Eppure quel quadro lì l'ha sempre imballato e se l'ha sempre portato con sé. E lui stesso diceva era una sorta di scenografia portatile che teneva sullo sfondo e che era l'unica cosa che lo faceva sentire a casa. Ecco, credo che di questo si parli oggi, di quegli oggetti lì, quegli oggetti che in un modo o nell'altro, ovunque tu sia, con chiunque tu sia, in qualsiasi luogo, in qualche modo ti fanno sentire a casa. 80024 0024 349 238 6666. Parliamo di questo perché stiamo parlando di un baule. È nata così, è nata che questo fine settimana è stato talmente lungo e intenso che per raccontarvelo ci metto 3 giorni. E non è colpa mia però, è colpa del passato. Ed è anche un po' colpa di Natalie. Per cui oggi farò una cosa particolare, oggi lascerò che sia lei a dirvi cosa è successo. Cioè, la voce sarà la mia, però le parole saranno proprio le sue. Sì, so che è un po' strano, però ci sono certe cose che quando vengono riportate perdono di forza, perdono di senso. In fondo l'idea stessa di poter raccontare delle emozioni, anche solo dei fatti, è un po' sopravvalutata. Se poi non sei la persona che quelle emozioni le ha vissute, allora proprio non ci siamo. E io ci tengo a voi, non vi voglio raccontare frottole. Non troppo, insomma. Ecco perché oggi lascerò a lei il microfono. Lei non è fisicamente qui per vari motivi, un po' perché aveva paura di impapinarsi, come se non lo facessi mai, e poi perché si vergogna in generale. E quindi ieri sera ci siamo messi lì a un tavolino e abbiamo costruito le righe che tra poco vi leggerò. Raccontano di un baule scomparso e di una storia antica. Sono il motivo per cui questo fine settimana è stato così importante. Sono il motivo per cui, ecco, da questo momento, io sono lei. Ciao, mi chiamo Natalie e vivo con Matteo da pochissimo tempo, ma mi sembra di conoscerlo da tanto. Eppure non avevo mai ascoltato i suoi programmi. Forse questo è il segreto di una coppia, non essere complici in tutti gli aspetti della vita, ma solo in quelli che per te sono importanti. Vi devo raccontare una storia. Fino all'altro ieri ho sempre tenuto in casa un baule di legno massiccio, antico, molto bello. Un baule sempre chiuso, che conteneva pochi oggetti. Non era il mio ripostiglio segreto per le cose intime delle donne e non era nemmeno il posto per conservare le prove di un tradimento. E purtroppo non era nemmeno il forziere dei pirati pieno di dobloni. No, perché io non sono ricca. Ma quel baule per me voleva dire molto. Era pesante come un'ancora. Era la mia ancora alla mia vita passata. Una storia fatta di dolore e anche un po' di vuoto. Un'ancora che ho venduto domenica a un mercatino per 40 euro. Perché finalmente era arrivato il tempo. E perché finalmente era arrivato Matteo. Il baule non è mai stato vuoto. Ha sempre contenuto qualcosa. E quel qualcosa non è mai cambiato. Negli anni non è mai cambiato. Quel baule adesso sarà nelle mani di un'altra persona. E spero davvero che se lo godrà. Per riempirlo di giochi per i bambini, ad esempio. O di cartoline delle vacanze. O magari lo userà come piccola dispensa, non lo so. Qualsiasi uso ne farà, sarà migliore di quello che ne ho fatto io e che un po' mi vergogno a raccontare. Quel baule nella mia mente si è sempre chiamato Paolo. Non l'avevo mai detto a nessuno e lo dico ora proprio perché in fondo spero che quel baule adesso sia diventato legna da ardere per un bel camino in una casa di montagna. Quante risposte mi dai? Mai nessuna, mai. Il mio fidanzato di quando avevo 15 anni. Il primo. Quello che sudi e non sai cosa fare. Quello che ti vuoi truccare ma non sai cosa fare. Quello che se bevi un po' di Cointreau ti sciogli ma se ne bevi troppo ti ubriachi. E poi stai male. e comunque non sai mai cosa fare. Quello che giocava a pallone e tutte le altre ragazzine gli correvano dietro e tu no. Paolo era il ragazzo che però aveva occhi solo per me, per i misteri della vita. E imparare a stare vicino a un uomo con lui è stato dolcissimo, non lo scorderò mai. Spero che questo Matteo lo capisca. Paolo non c'è più. È successo all'improvviso su un campo di calcio. Aveva 18 anni e ancora non si sa bene il perché. Semplicemente si è spento mentre correva. È caduto e non si è più rialzato. Io all'epoca non sapevo cos'era la morte, ma ne avevo sentito parlare. Tuttora non saprei definirla, però sono molto esperta di cosa vuol dire quando improvvisamente sparisce la persona che amavi e che avevi scelto per stare con te, anche se avevi 15 anni. Quella alla quale confidavi i tuoi segreti e che ti confidava i suoi, di cui conoscevi pregi e difetti e con cui condividevi momenti di tenerezza. Io non sapevo cosa fare, per cui ho chiesto ai suoi genitori, che erano più disperati di me. Gli ho chiesto se potevano darmi alcune sue cose, degli oggetti, cose ormai inutili, ma che per me significavano lui. Le sue scarpe da calcio, un maglione, dei dischi, un libro. Qualcosa per tenermelo stretto, per non lasciarlo andare via. Qualcosa che mi permettesse di chiuderlo dentro a un baule e non farlo scappare più. Paolo è stato sempre con me. Io con quel baule ci parlavo, perché lui è sempre stato il mio più grande aiuto in tutti questi anni, era sempre lì. E diceva sempre la cosa giusta. Fino a domenica. Io non lo so quando è successo che ho cambiato idea. Non lo so. Forse è stato quando Matteo ha rivisto la sua ex, quella che l'aveva mollato. Lui le ha detto che non lo voleva più vedere. Ce ne ha messo di tempo per farsene una ragione. Ma poi l'ha fatto per davvero, faccia a faccia. E mi ha fatto capire una cosa importante. E cioè che ogni volta che io parlavo con il mio baule in questi anni, ogni volta che parlavo con Paolo, in fondo un po' lo odiavo. E lo odiavo perché mi aveva lasciata. Se n'era andato via, in mezzo al campo, senza nemmeno salutarmi. E io non glielo potevo perdonare, perché avevamo ancora un sacco di cose da dirci, un sacco di cose da fare insieme. Però lui me le aveva negate. E non me ne fregava niente se non era stata colpa sua o lo era stata. Io so solo che ho provato per anni a tenermelo stretto chiuso in quel baule. Ma in fondo lo sapevo che non serviva a niente. Perché non c'era la sua pelle, perché non c'erano le sue parole, non c'era il suo sorriso, non c'era lui. C'erano solo degli oggetti. E allora ho pensato che lo dovevo lasciare andare, Paolo. Che non sarebbe mai scomparso del tutto. Perché io me lo ricordo bene. E sarà facile immaginare cosa avrebbe detto in ogni situazione. In ogni situazione che io vivrò. Perché a me, in fondo, i chiacchieroni piacciono. Ecco perché mi piace Matteo. E adesso c'è lui. E ancora non aveva abbastanza spazio. E lui è vivo. È qui. Mi parla. E ridiamo. Ed è per questo che ho dovuto dire addio a quel baule e a tutto quello che conteneva. E sono felice così. Come along a good husband. Come along a fair bride. Call the latest inception. And you look plain inside. It's a fine babe, it's just a timeshare. It's a fine contagious disease. And it's a fine swirling white god man. Lay your tombstone on me. Ecco, queste erano le parole di Nathalie, che ha scritto ieri sera. Io non l'ho aiutata, però stare di fianco a lei mentre le leggeva, mentre me le leggeva per farmi capire come avrei dovuto recitarle oggi, mi ha fatto piangere come un cretino. Allora ci siamo abbracciati e siamo stati un po' in silenzio. Poi, siccome io sono uno abbastanza emotivo, sono dovuto correre in bagno. E lei è venuta da ridere perché io vado in bagno nei momenti meno opportuni. Però, che ci devo fare? Sono fatto così. Stimolo risposta. La storia di domenica sera finisce proprio lì, proprio in quel bagno, dove ho scoperto troppo tardi che lo sciacquone del water si era rotto. Quindi io ero chiuso lì dentro, senza poter aprire la porta, con la finestra spalancata e le lacrime appena asciugate sulle guance, e cercavo di rassicurare Nathalie che andava tutto bene, ma che forse però era meglio cercare urgentemente un idraulico. E lei rideva, e io un po' meno, sinceramente, però ripensavo ai nostri abbracci e nonostante l'odore, l'imbarazzo, comunque stavo bene. Allora lei stava chiamando tutto l'elenco telefonico, ma poi mi ha detto che forse dovevamo cavarcela in qualche altro modo, perché come dice Woody Allen, non solo Dio non esiste, ma provate a cercare un idraulico nel weekend. E allora si è turata al naso, mi ha passato una bottiglia di coca e il resto rimanga tra noi. Con le precisazioni, il feticcio è la materializzazione di uno spirito protettivo, il totem lo è di una divinità. Solo per precisazione, Antonio da Brescia. Mi piacciono le precisazioni, grazie Antonio. Andiamo con gli oggetti. Allora, non riesco a separarmi dalla maglia del Milan firmata da Gianni Comandini a Milanello dopo una doppietta nel derby. Ti ricordi Matteo? Me lo ricordo, e come. Gianni Comandini, forse uno dei più improbabili marcatori dei derby. C'era addirittura, credo oggi, su Corriere della Sera un articolo che parlava di quelli che hanno segnato, non ci si ricorda più, e c'era Gianni, c'è anche la foto di Gianni Comandini. Io non potrei mai separarmi da 500 lire di carta, quelle azzurre, 4 pezzi ancora nuovi con serie in successione, 33 anni in un manuale delle giovani marmotte. Ale, la laurea di mio nonno, 1938, l'adoro, ma mi spiace chiedere a mio nonno di farmela ereditare perché non voglio che pensi che lo possa rattristare. Stefano, io non credo che lo rattristi, al contrario. Cioè, perché dovresti rattristarlo? Perché gli parli della morte? Non credo. Una moneta da un centesimo, vanno per maggiore le monete. Invece, oggi Fabio mi ha scritto questa cosa. Quando avevo 6 anni, mio padre cambiò auto, fece a mano una piccola croce di metallo scuro con una catenina da appendere allo specchietto retrovisore. Mi disse che un giorno sarebbe stata mia. Tutte le auto cambiate da quel giorno, almeno 7 che io ricordi, ebbero la catenina appesa, fino a quella su cui imparai a guidare. Ora che ho davvero un'auto mia, è lì appesa, come a dire, ok, è davvero tua. Fabio, credo che la catenina con la croce sia una delle robe più tamarre che si possano vedere su un'auto, ma è per questo che l'apprezzo, perché così ti fa sentire che sì, è tua. Andiamo al volo, perché prima è arrivato questo messaggio. La cosa da cui non mi saprei mai è un vecchio Golf infeltrito che era di mia mamma anni fa e ora è pieno di buchi. Pronto Maddalena? Pronto, ciao. Ciao, come stai? Ciao. Brava, bene, bene anch'io. Senti, mi faceva ridere il fatto che dicevi serve a far passare il mal di pancia, il torcicollo e per dormire meglio, ma anche per affrontare gli esami. Cioè, è una sorta di portafortuna, ma anche una specie di roba terapeutica. Sì, cioè quando ero piccola mia mamma me lo metteva sulla pancia e mi diceva che serviva, e io mi sono convinta ancora adesso che ho 23 anni, quando ho mal di pancia me lo leggo sulla pancia. Addirittura, scusami, quando ne hai bisogno lo tieni sotto la felpa? Perché è orrendo, ovviamente, tutto bucato, cioè sarebbe da buttare via, quindi non è una cosa con cui ci si può andare in giro, e quindi lo metto sotto la felpa, quella che invece resta fuori, ovviamente. Maddalena, grazie mille, ti auguro una buona giornata. Sì, ciao, grazie. Alla prossima. Adesso la borsa e poi io sono qui. Io sono qui. Io sono qui. I'm here. Io sono qui. Io sono qui. Noi siamo qui. Ciao e sto qui. Nella foto di oggi siamo in montagna, si ritorna con i grandi paesaggi di Io sono qui. Ci sono delle Alpi, direi, a giudicarle dalle punte, dalla conformazione. Il cielo è azzurrissimo, appena sotto c'è una striscia di nuvole basse, quasi di foschia, e in primo piano, proprio da dove è stata scattata la foto, c'è un manto di neve, che però è lì da un po', perché gli alberi sono spogli e non c'è un filo di neve sui rami. Quindi è una neve probabilmente che si sta sciogliendo, anche perché forse ci siamo e forse inizia a fare un po' di caldo. Gianfranco Bidoggia, 57 anni, con un gruppo di amici andiamo a camminare nelle nostre prealpi dariane. Qui sono sul sentiero che porta verso i corni di Canzo e sullo sfondo appaiono le grigne. Io sono qui. Corni di Canzo. Grigne. Siamo prealpi dariane, quindi sopra il lago di Como. Aia, l'ho detta, ragazzi. Adesso, ok, sono pronto per essere insultato. 349-238-6666. Però, prealpi lariane, se siamo nella zona dell'Ario, niente, Paolino Corleone mi guarda con fare perso, giustamente, che ne sai, sei di Senigallia, che ne sai tu. Prima di passare agli oggetti da cui non riuscite e non volete assolutamente liberarvi, mi è arrivato un messaggio di Francesco oggi, che riportava una notizia, credo una ANSA, insomma, una notizia d'agenzia. Parlando dalle rovine del suo palazzo diroccato di Tripoli, Gheddafi, nello stralcio del discorso trasmesso dalla la CNN ha ribadito che americani ed europei sono i nuovi nazisti, ma poi dice: ma io sono qui, ha ripetuto davanti ad alcune centinaia di persone, alla fine vinceremo. E il colonnello ha ripetuto: i missili della coalizione mi fanno ridere, sono qui, io sono qui. Benissimo, abbiamo anche Gheddafi dalla nostra, 800240024, 349-238-6666. Fabio, quello della catenina, Tamarra mi scrive: ehi Matteo, la catenina non è Tamarra, infatti quasi non si vede, ora non è più appesa, poi se fosse stata Tamarra l'avrei chiamata Catenazza. Fabio dammi retta, una catenina è comunque sempre Tamarra. Da quando sono nata non mi separo, sarà un problema del T9, non mi separo da uno straccetto tipo coperta di lino senza il quale non dormo, la mia scatola di metallo porta colori d'acquarello, Daniele, la mia BMX, la bandiera del Genoa cucita da mia nonna con una vecchia Singer, il mio zaino Invicta comprato in seconda media, ho letteralmente girato il mondo fino in Nuova Zelanda. Andiamo però a sentire qualcuno che me la racconta invece. Stiamo a Milano, andiamo da Maria Luisa. Pronto Maria Luisa? Ciao Matteo, ciao. Sei in gambissima, mi piace molto. Ti ringrazio, grazie mille Maria Luisa. Senti, allora, raccontami qual è questo oggetto, una maglietta, giusto? È una maglietta, è una vecchia sbrindellata t-shirt, una magliettina che ho preso all'American Center a Parigi quando ci abitavo alle fine degli anni 70. All'American? Center, dove andavo a fare danza jazz, nero, jazz. Hai vissuto a Parigi? Sì, 5 anni. Per lavoro, per piacere, per mio amore? Mio marito era lì. E io andavo, facevo anche queste cose. E questa magliettina l'ho presa perché andavo a fare questo. Avevo un magnifico, fantastico insegnante di jazz negro. E c'era negro. Un grafico mi piace che ci tieni proprio a sottolineare musica e musica negra. Sì, molto, molto viscerale, faceva molto bene. Liberatoria. Okay, ci siamo capiti. Tu la tieni e la metti, Maria Luisa? Sì, la metto ancora. Devo dire che c'è su riprende un quadro famoso che non so che sia. Da una parte una Madame Pompadour e dall'altra l'America che si toccano i pezzoli. E non so quale quadro riprendono. Comunque, me la metto sempre qua. La mettevo sempre allora, me la continuo a mettere quando faccio esercizi, yoga, quello che va, eccetera. Non posso pensare di non averla. Sono ritornata al centro, non c'è più il centro. Ah, e quindi quella rimane come unica testimonianza. Sì, è un mito. Maria Luisa, ti ringrazio moltissimo. Buona giornata. Ciao, sei gambissima. Grazie. E tra l'altro abbiamo deciso che negro non è un'offesa, giusto Maria Luisa? L'abbiamo deciso bello, insieme. Negro. Benissimo, ti abbraccio. Grazie. Mai penserei una cosa del genere. Grazie mille, ciao. Grazie. La mia maschera da sub, trovata in una grotta subacquea oltre 25 anni fa, tutt'oggi fedele compagna di immersione, Marcello da Trento. Una felpa verde, devo dire che felpe e magliette vanno per la maggiore, al punto che anche Ugo da Genova. Pronto Ugo? Ciao Matteo, buonasera. Ciao, buonasera. Maglietta ciao. dell'82. 72. Ah, 72. 72. Quindi, sì. C'ha 38 anni. No, 39. Quasi. Sì, 39. E lì è stato l'effetto paradosso, perché la nonna compra questa maglietta, arriva a casa, la maglietta era XL, io però avevo 6 anni, quindi era visibilmente immettibile. Immagino. E lì la maglietta ha rischiato uno sliding doors, che invece poi paradossalmente, invece di essere abbandonata in quel momento, è diventata fedele compagna di una vita, perché ce l'ho ancora adesso nell'armadio. Ma poi hai raggiunto la taglia per mettertela, oppure semplicemente la tieni come feticcio? Ah, hai raggiunto la taglia. No, ho raggiunto la taglia. È diventata la sindone, ecco, detta la sindone in casa mia. Nel senso che c'hai proprio i segni tipo del petto e degli addominali? No, nel senso che la moglie, sai, come un po' tutte, cioè c'è un rapporto, come dire, conflittuale, la vorrebbe rottamare, ma non c'è mai riuscita. Ma ha un rapporto conflittuale perché riempie l'armadio o semplicemente perché le dà un po' fastidio? Perché è un po' come tutte le mogli intelligenti, si sente, come dire, un po' bypassata, no? dalla presenza di questa maglietta, che è molto attenta la cioè, moglie. Come se il simbolo della maglietta fosse più forte del simbolo moglie. Questa percezione di affetto morboso nei confronti della maglietta, e lo sente sottratto al suo. Ugo, ti lascio continuare a viaggiare, perché mi sembra che tu sia in macchina, e ti ringrazio. Ciao, abbraccio. Buona giornata, ciao. Abbraccio anch'io. Ciao, andiamo a Firenze da Roberto. Pronto Roberto? Ciao Matteo. Ciao, finalmente non una maglietta. Grandi congratulazioni, fuori da ogni retorica, ma dal profondo del cuore. Grazie. Bellissima trasmissione. Grazie Roberto, grazie mille. Senti, dimmi. Posso dire? Certo, allora, certo. Io non appartengo al partito delle felpe e delle magliette. Benissimo. Bensì a quello del piccolo lapis. Ero un alcuni anni fa, sì. Diversi, io ho 59 anni, 6 o 7 anni fa giravo per Firenze e volevo prendere un appunto. Avevo un foglio di carta ma non avevo la penna. Abbasso gli occhi e vedo un piccolo lapissino. È mio. Roberto, scusami, momento... traduciamo per quelli fuori dalla Toscana, perché non è così detto. Il lapis è una matita. Lapis è una matita, benissimo. Ma lapis in realtà è, la, è proprio lì, lapis certo, è la pietra, è, quindi diciamo, etimologicamente è più corretto. Sì, sì, chiaro, okay. Chiaro. La grafite, credo. Allora, sì, esatto. Allora, questa piccola matita, comunque chiamiamola giustamente. No, ma lapis è magnifico. Dici, racconta di dove sei, se sei di Firenze. Sono di Firenze. Certo. Senti, che, ti ricordi l'appunto che hai preso con quella matita? Sì, l'appunto era, avevo, non so se si possono fare i nomi degli artisti, avevo visto un certo. quadro che mi ricordava un quadro di Nannoni, ma non era Nannoni, e allora mi segnai chi fosse questo pittore, che andai poi a cercare in internet ma non trovai. Sì, presi questo appunto qua. Senti Roberto, tu che cosa fai di mestiere? Cosa fai nella vita? Sono un medico. Ah, e il lapis adesso lo utilizzi o no, direi? Dunque, ti dirò che io, nonostante che sia costellato di telefoni cellulari, con tutti gli ammennicoli e le agendine varie, mi porto anche un quadernino piccolo dove prendo appunti rigorosamente al lapis, ma non è quello il lapis, è un altro lapis. È un altro lapis. Quello reperito sta da sempre insieme a me dentro il mio portafoglio, gelosamente custodito e usato pochissimo. Che medico sei, Roberto? Sono un medico internista. E quindi cosa fa il medico internista? Il medico internista si occupa di medicina generale. Quindi comunque sei in ospedale? Sei in ospedale? Sono qui nei dintorni di Firenze. Va bene. In via Bagnaripoli. Roberto, grazie mille, buona giornata. Grazie a te, complimenti per la trasmissione. Ancora grazie, ciao, ciao, buona giornata. Ciao. E poi quando si parla di oggetti feticcio, a me viene sempre in mente un libro. Perché delle volte la collezione di oggetti feticcio, in questo caso, può diventare quasi una patologia. È il caso del protagonista di un libro che si chiama Il Museo dell'Innocenza di questo autore turco che è Orhan Pamuk, che è molto più famoso, insomma non ha bisogno di essere presentato, come si suol dire. Questo è proprio è il libro che racconta di una storia d'amore, di una storia d'amore che non si può realizzare, che non si concretizza perché il protagonista decise di non concretizzare, e che viene sublimata attraverso una raccolta di oggetti dell'amata, che viene poi grazie alla quale viene creato un museo, che è il museo degli oggetti d'amore di questa donna, che questo uomo le sottrae nell'arco della vita e nell'arco della loro relazione. Questo è l'inizio del libro, è proprio l'esemplificazione di come un oggetto possa rappresentare un istante e molto di più. Era l'istante più felice della mia vita e non me ne rendevo conto. Se io l'avessi capito, se allora l'avessi capito, avrei forse potuto preservare quell'attimo e le cose sarebbero andate diversamente. Sì, se avessi intuito che quello era l'istante più felice della mia vita, non mi sarei lasciato sfuggire una felicità così grande per nulla al mondo. Quell'istante prezioso che avvolse il mio corpo in un abbraccio profondo e sereno forse durò solo qualche secondo, è vero, ma la felicità di quel momento parve proseguire per ore, estendersi per anni. Era il 26 maggio del 1975, un lunedì, all'incirca le 3:15. In quell'istante ebbi la sensazione che ci fossimo liberati da tutti gli opprimenti sensi di colpa, dal peccato, dal castigo e dal pentimento, e che il mondo si fosse sottratto alle leggi della gravità e del tempo. Baciai la spalla di Fusun, sudata per il caldo e il sesso. L'abbracciai dolcemente da dietro ed entrai dentro di lei, mordicchiandole l'orecchio sinistro. Per un lungo istante, l'orecchino rimase quasi sospeso nell'aria e poi cadde. Quel giorno non notai quale forma avesse. Eravamo così felici che fingemmo di non accorgercene e continuammo a baciarci. Un oggetto, un orecchino e la felicità. È il Museo dell'Innocenza di Orhan Pamuk. Grazie a lui, grazie a Stefano D'Andrea, a Paolino Corleoni e a Viola Bottoni. Domani non lo so, ma oggi io sono qui. E voi dove siete?